io sogno te ardentemente. Tanta luce e calor, sei tu che puoi dare alla mia vita un perché, perché non c'è sole senza te. Amor, amor, amor, io cerco te, io sogno te ardentemente. Ti sognerò.